Il punto di Stefano Folli. Ma queste dichiarazioni, anzi queste aperture di Angela Merkel sulle politiche europee, rappresentano davvero una novità o siamo noi italiani che tendiamo a enfatizzarle per ragioni politiche interne? Non è ancora chiaro e dovremo attendere le prime scadenze del nuovo semestre per capirlo. Di sicuro c'è una convergenza tra popolari e socialisti nel governo dell'Unione, indispensabile per tenere a bada gli euroscettici, e questo incoraggia Renzi, che sta per assumere la presidenza di turno. Un risultato per ora sembra portato di mano ed è l'attribuzione all'Italia della responsabilità per la politica estera. Il ministro Mogherini si prepara, tuttavia è bene ricordare che si tratta di una poltrona di prestigio, sì, ma abbastanza priva di contenuti. Fino ad oggi vi era seduta l'inglese Ashton, famosa per non aver concluso mai nulla, e si capisce. La politica estera dell'Unione di fatto non esiste, come dimostrano l'Ucraina, la Siria e altri casi. La fanno, quando la fanno, le cancellerie, che hanno tutto l'interesse ad affidare quella posizione a una figura debole. Siamo sicuri allora che sia interesse dell'Italia farsene carico?